Auguri di un felice Natale e di un buon anno nuovo da parte di Massimiliano Allegri. Tanti auguri, buon Natale a tutti i tifosi giallorossi. Buon Natale, buon anno, spero che le cose vadano sempre meglio per voi e per le vostre famiglie. Con il cuore, buone feste. Faccio gli auguri a tutti i tifosi, a tutte quelle persone che speriamo che è un anno fantastico per tutti e forza Udinese. Tutti convocati. Buon pomeriggio amici di Tutti Convocati, oggi per parlare non di calcio ma di ciclismo. E allora saluto subito Pier Augusto Staggi che è qui accanto a me. Buon pomeriggio Pier Augusto. Buon pomeriggio a voi. E saluto anche Paolo Bettini, CT della nostra nazionale, che è cortesemente in collegamento. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Vi abbiamo tutti convocati perché è il caso di fare un po' il bilancio su questo 2012 che va a chiudere e che è stato un 2012, io credo, importante per il ciclismo e non soltanto per i risultati, ma avremo tempo di parlarne anche con altri ospiti. Bisogna anche cercare di capire cosa accadrà nel 2013, che è l'anno che vede il mondiale sulle nostre strade. Insomma, è sempre d'attualità il ciclismo. Che anno è stato, Bettini? Come lo mandiamo in archivio? Ma lo mandiamo in archivio, io sarò che di natura cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. A me non è dispiaciuto, è un anno dove comunque gli italiani hanno saputo lottare a livello internazionale, siamo tornati a rivincere una classica e ci mancava da qualche anno, con un altro uomo siamo riusciti a salire sul podio del Tour e per tanti un gradino di un podio del Tour vale una carriera, ma lui non si accontenta, aspira a qualcosa di più, e parlo di Vincenzo Nibali. Abbiamo scoperto tanti giovani che hanno necessità di crescere, però nel crescere si stanno facendo vedere, stanno allargando i gomiti, come si dice, per farsi spazio nel gruppo. Quindi bicchiere mezzo pieno, Pier. Ma sono d'accordo con Paolo, la stagione non è stata esaltante ma sufficientemente positiva per il ciclismo italiano. E in generale però il discorso, ma poi ripeto abbiamo tempo un'ora per allargarlo, io credo che per il ciclismo e per la sua immagine sia stato un po' un anno zero, perché la vicenda di Armstrong pesa, poi ne parleremo, poi sentiremo anche la voce del dottor Ferrari e poi insomma purtroppo siamo sempre qui a parlare di queste cose, però a noi piace partire con i personaggi del 2012. Io ricordo intanto il numero verde 800 24 00 24 per le telefonate in diretta, quando volete parlare con tutti i convocati, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter @ tutti convocati, o ancora scriverci via mail tutti convocati @radio24.it. Bettini, chi è il personaggio di questo 2012? Troppo facile dire Bradley Wiggins? Ma è troppo facile, ma in realtà è lui, perché ha saputo vincere un Tour de France dominandolo con la sua squadra, ma è andato forte da inizio anno, ha vinto tantissimo e nelle vittorie che ha portato a casa è cresciuto vittoria per vittoria, e poi ha concluso a casa sua con una bellissima medaglia d'oro olimpica. È troppo facile dire Wiggins, ma credo proprio che se lo meriti. È impossibile non metterlo sul gradino più alto del podio, Pier. Secondo me invece in questo caso faccio, ma non per fare il provocatore, perché purtroppo siamo arrivati a questa fine dell'anno e quindi in maniera molto molto amara il personaggio, suo malgrado, è stato Lance Armstrong, che ha veramente funestato questo 2012 per mille questioni, per quello che è venuto dagli Stati Uniti d'America, ma è stato veramente uno tsunami che ha segnato profondamente la stagione 2012. La stagione 2012 sarà ricordata, come ha ricordato appunto Paolo Bettini, per le imprese di Wiggins, ma purtroppo gli ultimi tre mesi sono stati terribili, tanto è vero che almeno parlando qua da casa nostra in Italia di ciclismo pedalato, ahimè, se ne è parlato molto poco, ma credo a livello mondiale, cioè non è stato ad esempio valorizzato proprio come doveva essere, ad esempio il ciclismo britannico, un personaggio come Wiggins molto particolare, molto controcorrente, per certi versi molto fashion anche, perché è piaciuto molto, però è stato letteralmente spazzato via, tutti sono stati spazzati via da questo bruttissimo episodio che farà discutere per molto tempo, e credo che la questione comunque non sia neanche conclusa. No, non credo nemmeno io, resta poi anche l'altra chiave interpretativa, e allora la inserisco in questa chiacchierata, e cioè io trovo sempre positivo comunque quando uno sport è capace di mettere in piazza anche i propri errori del passato, e quindi da questo punto di vista Bettini, può essere che Armstrong alla fine sia un personaggio in positivo, ma in positivo perché alla fine quelle sette caselle del tour e tutto il resto restano vuote, e credo che possa essere comunque, pur nel dolore e nella difficoltà, un buon punto di partenza. Io credo che la forza vera del mondo del ciclismo, di questo sport, sia questa, la volontà di fare sempre più chiarezza, non fermandosi davanti a nessuno, nemmeno ad uno che sa portare a casa sette tour. Il ciclismo storicamente, ormai da anni, purtroppo soffre queste inchieste, soffre queste... momenti tristi, ma che servono per fare chiarezza e per far crescere tutto il movimento. Il ciclismo ha il coraggio di farlo, come si dice sempre, no? Una volta... Ci sono altri che non l'hanno, Paolo? Ma diciamo che nel ciclismo si è avuto coraggio anni fa di aprire il famoso pentolone e di iniziare a guardare dentro. Altri lo fanno. Io l'unica cosa però che vorrei dire, mi piacerebbe arrivare un pochino più rapido a sapere qual è la verità, per chiarezza. Riprendo una frase che ci ha lasciato il nostro grande Alfredo Martini: i sette tour non li hanno tolti ad Amsterdam, ma li hanno tolti al pubblico, ai tifosi, e non si può scoprire 7-8 anni dopo cosa è successo. Bisogna sicuramente lavorare ancora molto per stringere il cerchio e per rendere tutto ancora più credibile e in tempi molto stretti. Sì, pur con tutto il rispetto, Pier Augusto, per il lavoro della magistratura ordinaria, questo è un discorso che vale poi anche altri campi, non soltanto il ciclismo e il doping, se ne è parlato in questi giorni, in queste settimane, se ne parla ad esempio nel calcio, per il calcio scommesse, purtroppo c'è un legame sempre più stretto fra quello che è l'ordinamento sportivo con le sue regole, i suoi tempi, e quello che è invece l'ordinamento della giustizia, quella che si celebra nei tribunali e ha i suoi tempi che spesso sono incompatibili e finiscono per fare dei danni a livello di immagine, anche se poi si fa pulizia. La colpa è dello sport e della giustizia sportiva, che non fa nulla per essere credibile e per essere più efficace. Anche la vicenda Armstrong lo dimostra. L'UCI, che è il governo mondiale della bicicletta, ha delle grandissime responsabilità. Non ha fatto figli e figliastri. Questo è un problema che esiste non solo nello sport del ciclismo, ma ci sono persone che vengono tutelate o comunque sulle quali viene chiuso un occhio, e invece per altri vengono assolutamente triturati, e questo non va bene. Ci vuole, ad esempio, l'UCI non può più, ed è evidente, essere controllore controllato, ci vuole un ente terzo, ci vuole l'intervento, a mio modesto parere, è cosa che non è ancora stata fatta. Ad esempio hanno aperto una nuova commissione per indagare, per verificare il buon operato dell'UCI, ma la commissione ci sono delle incongruenze, ci sono dei problemi da risolvere. Dovrebbe esserci un intervento da parte del CIO, cioè dal massimo organismo dello sport mondiale, che deve andare a vedere se le sue federazioni lavorano bene. La cosa non viene fatta. Torniamo invece alla strada. Bettini, c'è ancora qualche rimpianto per come è finito il mondiale del 2012? Bah, rimpianti, quando non si porta a casa quello che si spera, si va a rivedere quello che è stato il film della gara e, boh, non lo so, sicuramente poteva essere condotto leggermente in maniera diversa il finale, ma io sto con i ragazzi, ho corso in bici con qualcuno di loro, e per tanti anni, quando si arriva in finale di una gara, bisogna lasciare spazio anche alla fantasia, e va bene così, nel senso che diamo merito al vincitore, a quelli che sono arrivati davanti, e comunque è stata anche questa un'esperienza, soprattutto per tanti giovani che erano alla prima esperienza mondiale, per prendere le misure magari per il prossimo futuro. Sì, ho avuto l'impressione, lo chiedo anche a Pier Augusto Staggi, che abbiate fatto un po' le prove e abbiate messo le basi per il mondiale toscano. Pier? Io me lo auguro. Paolo, quello bisogna riconoscere, lo sta lavorando in modo particolare da 2 anni con i giovani in maniera molto, molto efficace, molto buona, sta cercando di costruire sempre di più una mentalità azzurra, e soprattutto guarda avanti con tutti i rischi del caso, logico. Paolo non è in cuor suo che è un vincente, uno che ama vincere, mettersi in mostra, far bene, ingoia a fatica come tutti noi le sconfitte, però guarda avanti, si sforza di guardare avanti, c'è un gruppo di giovani molto interessanti e li sta coinvolgendo in maniera molto sapiente, e io penso che certo non sarà facile vincere il mondiale di Firenze con le tante pressioni che ci saranno, le grandi attenzioni, le grandi aspettative che questo mondiale 2013 avrà. Però sono sicuro di una cosa, che la squadra azzurra, la squadra di Paolo sarà sicuramente una delle grandi protagoniste. Me lo fai il nome con 9 mesi d'anticipo su chi potrà essere tra questi giovani, quello che Paolo ad agosto si trova? Passa, i giovani ce ne sono tanti, però io credo che lui, se tutto va come dovrebbe andare, l'uomo di riferimento sarà Vincenzo Nibali. Però di sicuro non andremo con una sola punta, e ci saranno almeno un paio di ragazzi interessanti, uno dei giovani toscano che Paolo sta coccolando da qualche anno, giustamente peraltro, perché è un corridore di grandi attitudini, deve solo fare il salto di qualità e deve riuscire anche proprio soprattutto mentalmente a fare un salto, è Diego Ulissi. Potrebbe essere lui, Bettini, Ulissi, poi c'è Moreno Moser insieme a Nibali. Altri, sai, il ciclismo è leggermente diverso dagli altri sport. Per individuare la squadra giusta bisogna inquadrare bene il percorso dove si andrà a lottare, che non è un palazzetto dello sport o un campo di calcio, ma ogni volta cambia. Il percorso di Firenze è molto adatto a questi uomini, a Vincenzo, a Nibali, a Diego Ulissi, che sa andare forte in salita e sa essere anche veloce. Questo è un mix fondamentale per il ciclismo moderno. Moreno Moser ha fatto la sua prima esperienza quest'anno in un mondiale ed era il primo anno in categoria, l'anno prossimo avrà un anno in più per crescere, vedremo, ci sono ancora questi 9 mesi, poco più, che ci dividono dal mondiale, ci vorrà calma, pazienza e vedremo un po' cosa ne uscirà. È comunque un mondiale che affronteremo con l'obiettivo di vincere, forse quest'anno l'obiettivo era quello di starci bene e poi spazio alla fantasia, a Firenze però si deve vincere, un po' questo il messaggio. Guarda, Pier mi conosce bene, ho fatto le nazionali che ho fatto fino a qui, quando siamo andati a giocarsi qualcosa io l'ho fatta per vincere, non mi piace partire e dire andiamo a perdere, sappiamo che ci batteranno. No, assolutamente, il gruppo deve essere straconvinto e stramotivato nell'andare a cogliere il massimo risultato, senza dimenticarsi chi sono gli avversari. E poi una cosa importante, l'ha accennata Pierre, andare per vincere e la sera essere consapevoli di aver dato tutto, solo così si può rimanere sereni anche dopo una sconfitta, con tutte le critiche che giustamente possono arrivare, ma se un gruppo ha lavorato in sintonia e ha dato tutto quello che poteva, poi alla fine riconosce sia gli errori magari commessi e riconosce anche la superiorità dell'avversario e accetta la sconfitta anche in maniera un pochino più tranquilla. Grazie Paolo Bettini. Grazie a voi. Grazie Paolo Bettini. Ciao Paolo. Buon 2013. Noi ci fermiamo, ci sono le informazioni sul traffico, poi torniamo ancora per viaggiare un po' nel mondo del ciclismo. Tutti convocati. Di nuovo insieme con Pier Augusto Staggi. Che grande 2013 che ci aspetta per il ciclismo. C'è questo Mondiale di Firenze che ho l'impressione segnerà molto la stagione del nostro ciclismo, segnerà anche i commenti che faremo magari tra un anno qua, perché correre un mondiale in Italia, nel proprio paese, è vero che poi si può anche accettare la sconfitta, però è vero che il fascino della vittoria è un fascino difficile da poter resistere. Soprattutto corriamo su strade dove... È anche un po' costruito su misura, dai! Beh, costruito su misura, quello mica tanto. Vedremo. Perché è un percorso molto selettivo e che sarà adattissimo a Philippe Gilbert, l'attuale campione del mondo, adattissimo a Alejandro Valverde, adattissimo a un corridore come Alberto Contador. Cioè, ce ne saranno tanti di rivali, perché quando i percorsi sono duri duri vengono fuori i grandi campioni. Per questo noi caliamo di sicuro, se non avrà problemi, Vincenzo Nibali, e sarà là a giocarsela con questi grandi campioni. Però sarà veramente da sudar sette camicie, perché è un percorso molto duro, cioè assolutamente, se era considerato duro quello di quest'anno a Valkenburg, quello di Firenze è tre volte più duro. E soprattutto bisognerà vedere anche come sarà gestito dalle squadre, come sarà interpretato, chi avrà il peso maggiore della corsa. E penso che il fatto stesso di correre in casa, l'Italia partirà, ahimè, con questo grande peso, e sì, certamente Bettini dovrà essere bravo a trovare soluzioni per poter portare la croce e anche poi eventualmente scappare via. In caso ci sia l'opportunità. Torniamo al nostro podio dei personaggi. Questo Bradley Wiggins, che cos'è? Un fuoriclasse, un ottimo ciclista che ha vissuto una stagione al di sopra delle proprie possibilità, anche approfittando magari di alcune circostanze, di Contador che tornava, di un'Olimpiade in casa. Che cos'è Bradley Wiggins? Potremmo avere una risposta più compiuta tra un anno, perché quest'anno, diciamo che quest'anno ha vissuto una stagione perfetta dove tutto gli è andato bene, dove la Sky ha dominato il lungo e il largo, era la formazione più attrezzata, più coesa, più determinata. E loro sentivano veramente, correvano con la leggerezza di quelli che possono perdere e non è un dramma, e se vincono era un'impresa, quindi è la condizione migliore, perché il ciclismo inglese non aveva mai vinto, quindi non avevano pressione di nessun genere. Il prossimo anno cambia totalmente la musica, perché avranno la responsabilità di confermarsi, gli avversari sapranno benissimo gli uomini da controllare, non sottovaluteranno, non dico che è stato sottovalutato Wiggins, ma ad esempio Wiggins ha avuto anche un grande vantaggio, che il Tour, con un grande acume, loro uniscono sempre l'aspetto tecnico a un aspetto di marketing e hanno confezionato un Tour de France a immagine e somiglianza di Bradley Wiggins. Wiggins è un uomo che, sì, anche ha cronometro, anche troppo. Io, fra le cose brutte di questo 2012, metto anche la gestione di quelle tre settimane, ma anche all'interno del Team Sky a un certo punto è stato chiarissimo che il Tour avrebbe dovuto vincerlo Wiggins, anche per motivi di marketing e non soltanto sportivi. Questa è una ragione in più, è stato un per po' pilotato dire che, per dire che ad esempio il nostro Nibali è stato un eroe, perché se avesse corso come fanno in molti per il piazzamento, lui il terzo posto l'aveva già ottenuto e poteva veramente correre di rimessa. In realtà fino all'ultimo ha provato a perdere il Tour addirittura, si è messo nelle condizioni brutte di osare oltremodo, però ha fatto di tutto per vincere, quindi si è messo anche nella condizione di rischiare di perdere. Poi dopo c'è stato addirittura questo minuetto stucchevole tra Chris Froome e Wiggins, quindi un duello interno che però era... Sì, noi siamo abituati a vederlo nella Formula 1. Era poco spettacolare, nel ciclismo è semplicemente imbarazzante. Il ciclismo è sport di fatica, è sport vero da e questo poi punto di vista. Era un percorso troppo condizionato dai chilometri contro il tempo. 110 chilometri vuol dire guadagnare per uno specialista come Bradley Wiggins, a un corridore come Nibali che è un ottimo corridore, guadagnare perlomeno 5 minuti. 5 minuti devi mettere non so quante montagne per recuperare. Sì, è praticamente impossibile. E gli esercizi sono totalmente diversi, cronometro, salita, è veramente, deve beccare la giornata giusta, trovare la giornata veramente fortunata dove tu rendi il massimo assoluto e Wiggins doveva vivere la giornata nera. Queste situazioni si creano veramente poche volte e quest'anno non è accaduto. Adesso bisogna vedere il prossimo anno. Il prossimo anno sarà un percorso diverso, meno orientato a valorizzare in maniera così spudorata i cronomen, e quindi con un contador ad esempio della partita sarà credo tutto diverso. Dobbiamo aspettare, appunto, come ti stavo dicendo prima, un anno per vedere se è stato, non dico un fuoco di paglia, ma l'annata perfetta, o se invece Wiggins avrà la forza, la concentrazione, la fame giusta per verificare. Ricordiamo che dovrebbe venire anche al Giro d'Italia. Ecco, poi ne parliamo. Anche poi ne parliamo. La possibilità di fare sia Giro che Tour. Sia Giro che Tour, e difatti qualcuno ha detto: attenzione, perché il Giro 2013 è un po' troppo costruito per convincere Wiggins a venire anche a correre tra noi in assenza di altri personaggi. Perché io su quel podio, insieme a Wiggins, fatico a trovare chi mettere, o almeno ad esempio, non trovo una nomination dal Giro d'Italia, che quest'anno, sinceramente, ha vissuto dal punto di vista dell'appeal, della forza anche del nome, una stagione, non dico da dimenticare, ma al ribasso, con tutto il rispetto per Heisdal. Anche Heisdal, noi ci auguriamo, non so bene cosa augurarmi, se una riconferma di Heisdal per dimostrare a tutti che è un grande corridore, che la sua vittoria non è stata frutto del caso, delle situazioni. Dall'altro mi auguro invece che in realtà i vari Wiggins, Heisdal, Joaquin Rodriguez, se sarà della partita, che sarà un osso duro anche lui, anche se ha il tallone d'Achille della cronometro, saranno dietro. E sarà invece un discorso orientato sul tricolore. Nibali, che il prossimo anno correrà con una nuova maglia, con una maglia nazione, perché correrà per la Astana, formazione kazaka, che comunque annovera 10 corridori italiani, correrà a tutti gli effetti per la prima volta forse nella sua carriera per vincere il Giro d'Italia, il suo primo Giro d'Italia. Al momento ha dimostrato di essere uno dei più forti specialisti al mondo in assoluto, perché pochissimi sono in grado di poter salire, come è salito lui negli ultimi anni, su tutti i podi dei tre grandi giri. Lui è riuscito ad arrivare quest'anno terzo al podio del Tour. Al podio del Tour, ha vinto una Vuelta, ha fatto due podi al Giro d'Italia, quindi ha tutto per poter fare il definitivo salto e consacrarsi come uno dei più grandi interpreti delle corse a tappe. Al suo fianco avrà anche un direttore sportivo di grandissima esperienza e carisma, qui a me, Beppe Martinelli. Quel Beppe Martinelli che è stato in sostanza il grande direttore sportivo di Marco Pantani, che è stato quello che appunto ha vinto quattro giri d'Italia con quattro corridori diversi, con Pantani. Sì, è l'uomo Cunego, giusto per provare Garzelli a far fare a Nibali il salto di qualità definitivo e a scalare quei gradini di quel podio, soprattutto almeno con nel giro, io credo. Con una squadra veramente votata alla sua causa. Questa, non che la Liquigas non fosse, ma la Liquigas ha vissuto, diciamo, un interregno, no? Con il basso che stava, diciamo, invecchiando, e il Nibali che stava crescendo e stava maturando. Adesso Nibali è nella condizione psicofisica ideale per rendere il massimo, e andrà in una formazione che Martinelli e Alessandro Vinokurov hanno costruito per lui. Vogliono assolutamente, sì, che lui, è una formazione anni, che lo può accompagnare. Diciamo una cosina su Alberto Contador, che ha vinto la Vuelta, ma io credo si attenda molto, e noi ci attendiamo molto dal 2013 di Contador, che è uscito finalmente dalle sue vicissitudini, che è tornato a vincere, e questo è certamente importante, che probabilmente può essere il personaggio del 2013. Assolutamente sì, Alberto Contador è il vero personaggio, il corridore più carismatico, anche più bello da vedere, più spendibile del ciclismo del terzo millennio. Nelle classiche di un giorno forse c'è Fabian Cancellara, che personalmente è il numero uno nelle corse di un giorno, in particolare per le classiche del nord. È un corridore eccezionale che sa attaccare a fronte alta, non gli importa nulla se poi arriva secondo o terzo, non fa mai drammi, ma dà spettacolo in maniera compiuta. E dietro di lui ci sono i vari Tombonen, ci sono i Félix Gilbert, gli Alejandro Valverde. Nelle corse di tappe, Contador può essere la copertina del ciclismo mondiale nel 2013, anche perché tornasse La Vuelta ai livelli di prima. Io credo sarebbe anche un messaggio. Poi torniamo a parlare della vicenda doping e di Armstrong. Comunque la prima parte della carriera di Contador in qualche modo è stata sporcata, macchiata dalle sue vicissitudini. Potrebbe anche essere un bel segnale, un ritorno di Contador ai livelli a cui ci ha abituato. No, lui è già tornato. In realtà la Vuelta ha dimostrato che dopo 6 mesi lui è tornato a grandissimi livelli. Resta il numero uno. Ha battuto grandi campioni, soprattutto quella Vuelta non gli si diceva moltissimo perché erano tutte tappe molto nervose, con tutti arrivi da scattisti, quindi era una Vuelta disegnata più per Joaquin Rodriguez, che infatti ha perso clamorosamente una Vuelta che lui aveva già vinto. Però nella vita, nello sport, i grandi campioni devi avere fortuna, ma devi avere anche genio estro, devi osare. Poi forse la motivazione. E Contador è riuscito a pochi giorni dalla fine di questa Vuelta che sembrava per lui segnata, ha fatto quello che forse pochi sarebbero riusciti a fare, cioè ha cercato di far saltare il banco, e ci è riuscito perfettamente con un attacco da lontano sottovalutato dalla Katiuscia di Joaquin Rodriguez e dallo stesso Rodriguez, che al momento ha detto sì lascialo andare che tanto torna indietro lui, e invece non è mai tornato indietro, anzi è andato in crisi Joaquin Rodriguez e ha fatto un capolavoro, e ha vinto la Vuelta. Credo che quella sia assolutamente la gemma al momento di una carriera bellissima, perché ricordiamo che Contador ha vinto in carriera, sostanzialmente avrebbe vinto, usiamo il condizionale, già 7 grandi giri, 2 però li hanno revocati, 1 assolutamente ingiustamente, perché il Giro d'Italia gliel'hanno tolto quando l'ha vinto in realtà in maniera cristallina, senza aver... Sì, per strascico, per... Solo perché hanno fatto una legge retroattiva dicendo tu in quel periodo dovevi essere squalificato, quindi ti togliamo tutte le vittorie che... Non avevi diritto di partecipare. Pier, ci fermiamo un minuto, poi torniamo, e torniamo anche sull'argomento doping, Tutti convocati. UCI will ban Lance Armstrong from cycling and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. E questo, Pier Augusto Staggi, è il momento in cui Pat McQuaid annuncia che l'era di Lance Armstrong è finita. Uno dei momenti più drammatici, io credo, non solo per il ciclismo, ma per lo sport in generale. A me ricorda Ben Johnson che se ne va dalle Olimpiadi di Seul nel 1988 e poi non so cos'altro. Però, lo abbiamo detto prima, è anche un momento di grandissima chiarezza per il ciclismo. Ma non sono totalmente d'accordo, perché di questa vicenda c'è poca chiarezza in realtà. La mia posizione è questa, nel senso che Armstrong, comunque vada, è stato giudicato dagli amanti del ciclismo, è colpevole. Una dozzina di corridori di escompagni hanno testimoniato davanti alle autorità giudiziarie americane, davanti all'USADA, sotto giuramento, dicendo sì è vero, abbiamo fatto uso sistematico di doping e Armstrong con noi. Quindi il giudizio supremo è stato dato dalla gente. Poi ci sono i regolamenti sportivi e quindi è una farsa quella dell'UCI, quelli della ZOO, del Tour de France, di cancellare i 7 Tour de France. C'è un regolamento della WADA che parla chiara. Dopo 8 anni una gara cade in prescrizione. E questo è un regolamento che non ho fatto io, hanno fatto loro e va rispettato. Sì, quindi... però non si poteva tenere quel nome in quelle 7 caselle. Nell'albo d'oro del Tour de France c'è il nome di Bjarne Riis, che è un reo confesso. Nell'albo d'oro del Tour de France c'è il nome di Pedro Delgado, che chi è appassionato di ciclismo sa perfettamente che fu trovato positivo anche lui al Probenicid e fu scagionato solo perché presidente dell'UCI all'epoca era Luis Puig, spagnolo come Pedro Delgado. E potrei andare avanti, c'è il nome di Jan Ullrich, ci sono nomi di altri corridori. È una sciocchezza togliere 7 tour, come ha detto Alfredo Martini giustamente, hanno fatto un torto al ciclismo e la cosa più grave è che questo l'ha consentito il presidente Pat McQuaid, un'associazione, un'organizzazione, un governo mondiale della bicicletta che ha permesso questo, perché se non c'erano le indagini private volute da un'assicurazione americana che ha fatto causa a Lance Armstrong e ha messo in moto investigatori privati per arrivare alla verità, l'UCI ha sempre taciuto e coperto quello che ha fatto Lance Armstrong. Personalmente la favola bella di Lance Armstrong per me non è mai stata così bella. Sì, è stato un personaggio controverso anche quando vinceva, in tanti scrivevano, in tanti, qualcuno oggi scriveva. Però mi sento di dire che è veramente da Ponzio Pilato quello che stanno facendo, perché stanno calpestando tra l'altro degli ordinamenti sportivi, ribadisco, non li puoi togliere 7 tour, ma se ne togli uno, perché quello del 2005 andrà in prescrizione a luglio di quest'anno, del 2013. Che sarebbe l'ultimo della fila. Gli altri 6 sarebbero già prescritti, quindi non c'era bisogno, bastava un asterisco o basta semplicemente la memoria. Tutti hanno capito che cosa hanno fatto, gli appassionati di ciclismo sanno perfettamente cos'è accaduto. Di questa vicenda non c'è bisogno di togliere, rovinare un albo d'oro, perché tanto è già rovinato. E ribadisco, togli 7 anni di tour a Armstrong e lasci quello di Bernalis. Sì, rischi di sbianchettarlo tutto, di doverlo sbianchettare tra le altre cose. Allora, se devi farlo veramente, lo fai fino in fondo e dici gli ultimi 20 anni di ciclismo non esistono più. Ma non c'è logica, non è possibile fare questo. Non è possibile. Sì, sarebbe comunque un'operazione, io non so nemmeno quanto utile, mentre devo dire che quelle 7 caselle bianche a me comunque fanno un effetto benefico, però queste sono poi posizioni personali e assolutamente Pier Augusto Staggi ha argomentato la sua. Di questo 2012 di Armstrong e dell'impatto del doping ancora sul mondo del ciclismo abbiamo parlato anche con Di Rocco, presidente della federazione, e allora lo sentiamo. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio presidente, intanto auguri. Come ha sentito, ci siamo infilati a parlare di doping in questo che è il nostro bilancio del 2012, che è stato un anno fortemente segnato dalle questioni del doping con la vicenda di Armstrong su tutte. Possiamo definirlo l'anno nero per il doping nel ciclismo a livello di immagine? Come dice il nostro grande saggio Alfredo Martini, dice, ci sono 7 pezzi di carbone che hanno segnato questa stagione, però insomma continuo a dire che purtroppo tutti gli elementi di accertamento che stanno producendo in questo periodo sono tutti frutti di un periodo nero del ciclismo, per cui parliamo ancora di periodi antecedenti al passaporto biologico, quindi 2009, e nonostante quello che il ciclismo anche a livello mondiale abbia potuto mettere in campo con il passaporto biologico, che sicuramente è lo strumento più attuale di monitoraggio dello stato di salute degli atleti, e veniamo comunque demonizzati e colpiti ovviamente da questi fattori che da una parte portano alla verità assoluta, ad aprire finestre e affrontare con determinazione tutto quello che è successo, dall'altra continua un filone negativo nei nostri confronti, nonostante sia l'unica disciplina che veramente ha affrontato con molta determinazione questo stato di criticità. Ecco, lei ha detto anche recentemente: il ciclismo paga perché cerca. Chi continua a non affrontare invece il problema del doping? Ma guardi, io non mi confronto con gli altri perché ognuno deve guardare in casa sua, però ci sono statistiche anche in Italia della commissione di vigilanza del Ministero della Salute che dice altri numeri. Certo, non dice che noi non abbiamo il problema, è solo che noi lo stiamo affrontando. Ovviamente quando si fanno analisi di 2 atleti controllati con 2 positivi c'è una percentuale del 100%, quando oggi noi anche a livello minore dilettantistico e juniores, quindi anche 17-18 anni, siamo su una base del 3%, per cui ecco, mi piacerebbe parlare del doping per chiarire, per affrontare la situazione, ma anche per evidenziare lo sforzo enorme che il ciclismo ha fatto. Voi nel 2012 avete fatto anche una scelta simbolica come federazione, via dalla maglia azzurra anche i semplici indiziati. È un bando che ci ha penalizzato. È vero che poi si può parlare anche di ricambio generazionale, però è vero che da questo punto di vista la scelta italiana è una scelta che altri non hanno seguito e che penalizza poi nel momento della raccolta dei risultati. Ne valeva la pena? Ma io credo di sì, perché in un momento in cui dovevamo recuperare credibilità e immagine, evidenziare l'espressione dei valori della bicicletta, che non sono solo quel doping, ma sono di uno straordinario strumento come compagna di gioco dei bambini, e anche in questo caso non viene evidenziato che stiamo combattendo l'agonismo precoce, il campioncino precoce, quindi abbiamo anche tolto le premiazioni a livello individuale nel mondo dei giovanissimi, per cui tutta una serie e un percorso che vuole portare a evidenziare i valori della bicicletta e del mondo del ciclismo, che per me continua a essere un mondo di brava gente, con un tessuto societario molto articolato. Abbiamo 3.600 società, non credo che siano tutti propensi a proporre il doping, anzi mi sembra che, siccome abbiamo 1.000 società che si occupano solo di attività giovanissime, questa è più un'attività rivolta al sistema sociale che non al sistema sportivo. Che non all'agonismo. Ma resterà anche nel 2013 questo bando, o è possibile un passo indietro o una modulazione diversa? Ma guardi, se guardiamo il decreto anticostituzionale del governo, di fatto non dico che ha copiato, perché è solo una battuta ovviamente, però noi avevamo pensato lo scorso anno di dare più valore ai simboli. Per noi la maglia azzurra è il massimo simbolo di aspirazione per ogni atleta, anche nelle società in cui corrono questi atleti, per cui abbiamo voluto privilegiare. Quindi è una scelta che difendete, che è una scelta, cioè, che difendete, che resterà. Sì, assolutamente resterà, soprattutto per gli atleti che ancora hanno inchieste in corso. Chiediamo alla magistratura di fare presto, perché questi rinvii anche del processo di Mantova ad aprile fa presupporre che ovviamente un'altra volta ci troveremo con scandali alla vigilia del Giro d'Italia. Insomma, forse è più scappa, ma noi no. Quindi c'è il rischio di un ulteriore danno di immagine, però in questo caso, anche a fronte di ritardi della magistratura ordinaria, resterà la scelta comunque di andare a penalizzare anche soltanto gli indagati. Sì, noi vorremmo andare su questa linea, sicuramente rispettiamo sempre i criteri della democrazia e dei diritti degli atleti, no? Però ho fatto un passaggio col decreto costituzionale, perché non è una doppia sanzione, ma è un criterio di legittimità di indossare la maglia azzurra. Quindi chi si trova nelle condizioni di un profilo eticamente chiaro e disponibile va avanti. Ci potrebbe essere qualche valutazione sui tempi, che in effetti quando l'abbiamo fatto lo scorso anno l'abbiamo fatto perché stavamo affrontando un'emergenza fortissima, quindi il segnale andava forte, per cui se c'è qualche atleta che è stato penalizzato doppiamente lo rivaluteremo. Però, quindi potrebbe essere il caso di Ivan Basso, potrebbe esserci una riflessione su Scarponi, e poi la saluto. Ma sono casi differenti. Ivan è stato squalificato per 2 anni, Scarponi per 3 mesi, per cui noi quando avevamo deciso di mettere questi paletti parlavamo di sanzioni superiori ai 6 mesi, perché c'era un articolo del codice del CIO che individuava quei 6 mesi. Non vogliamo essere discrezionali, quindi avevamo fatto riferimento a un articolo e a un periodo certo. Grazie Presidente. A voi e buon lavoro. E insomma, Pier, anche nel 2013 maglia azzurra bandita a coloro che sono sottoposti da indagine. Vale il segnale positivo lanciato dalla federazione, o poi è anche un po' un autogol, un modo di castrarsi visto che gli altri non lo fanno? Ma come ha detto il presidente Di Rocco, in uno stato d'emergenza, e il ciclismo è in uno stato d'emergenza, si fanno anche delle leggi speciali. Certo, bisogna differenziare un conto e non convocare, dare un'indicazione al CT Paolo Bettini che di non ricorrere a quei corridori che sono sotto inchiesta. Un altro invece dire non prendi un corridore che ha avuto più di 6 mesi di squalifica e magari l'ha scontata appunto 3 o 4 anni fa, la cosiddetta retroattività. Sì, perché le condanne sono fatte anche poi per riconsegnare alla società civile o in questo caso allo sport persone che hanno pagato loro conto. Ma puoi anche cambiare la regola e dire ok, da adesso in poi anche chi ha avuto un anno di squalifica, 8 mesi di squalifica, non veste più la maglia azzurra, lo puoi fare. Però quello che io ho sempre così non accettato è il fatto che sia appunto retroattiva. Tu dici, in realtà un anno fa hanno deciso, Ivan Basso, per dire, che ha fatto 2 anni di squalifica, non lo riconvochi più perché ha avuto una squalifica di 2 anni. Ma Basso era già tornato da un po', aveva già vinto un Giro d'Italia, aveva ritornato anche da assaporare il profumo della maglia azzurra. Sì, poi soprattutto ad esempio nel caso di Ivan Basso, io credo inaccettabile che Ivan Basso sia stato squalificato e altri per le stesse vicende, la stessa inchiesta, gli stessi documenti, gli stessi sospetti, le stesse accuse, se vogliamo anche le stesse confessioni, in realtà altrove l'hanno passata liscia. Da questo punto di vista io trovo che sia ammirevole come lo sport italiano sia anche capace di punire i suoi protagonisti. Trovo un po' meno ammirevole l'incapacità di chiedere poi una par condicio ovunque. Sono perfettamente d'accordo con te. Infatti Renato Di Rocco, che è anche vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, se ha, diciamo, una colpa è quello di far sentire poco la sua voce in seno all'Organizzazione Mondiale della Bicicletta, proprio per uniformare questi regolamenti. Comunque dire, scusa, non è possibile che poi una federazione lussemburghese, per citarne una, non a caso, diciamo, per noi il fatto non sussiste, e l'UCI non ricorre, cosa che invece per taluni atleti ha ricorso. Ritorniamo a monte, tu sei mio amico o comunque mi sta bene, non ti rompo le scatole. Invece il ciclismo italiano, che è stato per anni forse troppo forte, è stato anche per anni troppo compromesso, io non metto in dubbio nulla. Infatti in Italia credo che in questo momento ha una debolezza a livello internazionale molto. Molto. Ci fermiamo, ultima pausa per le notizie sul traffico, poi torniamo. Tutti convocati. Never seen any doping practice from Lance Armstrong. I can say I never seen, I never heard something about that. Quella che state sentendo è la voce del dottor Ferrari, l'intervista delle scorse settimane ad Al Jazeera, nella quale lui parla di Lance Armstrong e dice, lo avete sentito, io non ho mai visto Lance Armstrong fare pratiche dopanti, non ho mai sentito che si dopasse, non l'ho mai aiutato e non gli ho mai consigliato di praticare il doping, anzi lo ho aiutato a non cadere nella rete del doping. E chi lo fa sono corridori che hanno fatto un patto con l'USADA per coprire le proprie responsabilità. Chiudiamo l'argomento doping parlando del dottor Ferrari, perché io ho letto in queste settimane il presidente Di Rocco, ad esempio parlando di Scarponi, dire io che ero il presidente della federazione non sapevo che Ferrari fosse bandito. È possibile che esistano ancora queste figure con poca chiarezza? No, è possibile sì, perché adesso non è mai bello autocitarsi, ma questo pasticcio regolamentare l'ho tirato fuori io, nel senso che a un certo punto mi sono domandato sul nostro sito, detto, ma siamo proprio sicuri che Michele Ferrari è un mostro? Non ti dico le reazioni anche di alcuni colleghi che mi hanno fornito peraltro documentazione sbagliata, e non c'era nessun, nel casellario giudiziale della federazione, dove c'è l'elenco dei medici, e non solo medici, direttori sportivi, tecnici, massaggiatori, che sono stati squalificati o inibiti, non figurava il nome di Michele Ferrari. E poi dopo, effettivamente, tengo a precisare, in questo caso il presidente Di Rocco non c'entra assolutamente, perché lui non era presidente all'epoca di questi fatti, però grazie a lui poi sono entrato in possesso, insieme abbiamo scoperto che era stato inibito. Tra l'altro c'è anche, parlando con degli avvocati, c'è anche un problema dato proprio dal concetto di inibizione, che l'inibizione dovrebbe avere un termine temporale, invece qui non c'è, sì, perché sennò sarebbe una radiazione. Non esiste l'inibizione. Comunque è stato inibito nel 2002 ed è stato inserito esattamente nel casellario. Oggi c'è il nome Michele Ferrari, mi è stato messo un mese fa. capisci? Quindi gli atleti erano a conoscenza, uno dice un problema di lana caprina, perché a livello di vulgata lo sapeva chiunque che non doveva frequentare Michele Ferrari, però un conto è la vulgata, un conto è il chiacchiericcio, un conto sono delle regole e delle cose scritte, e qua come al solito invece ci sono dei grandi pasticci, della grande confusione, si fa lotta al doping dove si va a incidere in maniera profonda sulla vita degli atleti, che saranno colpevoli, però come è giusto dare pene esemplari, è giusto anche essere esemplari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche dal punto di vista formale, perché a volte la forma è sostanza. Chiudiamo tornando però sulla strada, abbiamo parlato prima del, mi viene troppa tristezza, del tour e del giro che ci aspettano. Ho letto da qualche parte, ho l'impressione che il giro del 2013 sia costruito perché venga qualche grosso nome, perché venga Wiggins, perché magari lo vinca, perché sull'albo d'oro ci sia un nome con quattro quarti di nobiltà. Sono malizioso o il sospetto l'hai anche tu? Ma sai, sono discorsi da bar ed è bellissimo fare discorsi da bar, è l'essenza dello sport. Non avremo mai la controprova, perché gli organizzatori di RCS giustamente smentirebbero categoricamente. Assolutamente. Loro hanno disegnato comunque un bellissimo giro, questo bisogna dirlo, un bel giro. Certo, forse c'è quella cronometro di Pesaro, estremamente allettante per un corridore come Wiggins. Sì, è una cronometro da 3-4 minuti. Devo anche dirti che però Wiggins, se viene a correre questo Giro d'Italia a 70 minuti da tanto, dovrà sudare molto di più che al Tour de France, perché l'ultima settimana comunque gli organizzatori del Giro d'Italia gli hanno reso la vita difficile, quindi dovrà dimostrare di essere un ottimo passista scalatore, dovrà dimostrare di avere una squadra realmente all'altezza della situazione. Certo, poi se non succederà nulla sulle grandi montagne, Wiggins vincerà con pieno merito. Diciamo che c'ha un buon bonus, ecco, c'ha un buon bonus, perché diciamo che il biglietto d'invita è stato confezionato bene. Diciamo che saranno anche discorsi da bar, però poi uno fa il conto dei chilometri a cronometro e 50 chilometri e spesso sono la cartina crono individuale, sono tanti, e Nibali certamente non la vede di buon occhio, però uno come Nibali, che è un corridore veramente tenace, devo dire fantasioso, che potrebbe, diciamo sulla carta, no? Adesso qualcuno potrebbe sorridere, ma diventare un Contador, perché come spirito sono animati dalla stessa voglia di dare spettacoli, di far saltare il banco, di non darsi mai per vinti, di correre anche in maniera un po' spregiudicata. Ad esempio, per la Liegi del 2012 tantissimi hanno criticato Vincenzo Nibali. Io sono tra quelli che lo applaude, il secondo posto che è stato eccezionale. Certo, da tifoso poi rimani male, perché è stato ripreso veramente perché non hai a vinto. 800 metri dal traguardo, ma ha fatto un numero di grandissima classe. Se fosse andato a buon fine saremmo qua tutti a decantarlo ancora. Invece è andata male, come al solito quando le cose vanno male tutti siamo pronti a dargli una legnata sulla testa. Io non sono tra queste, io anzi lo invito a non perdere questa sua caratteristica, certo a migliorare, a oleare meglio i tempi, a scattare nel momento più giusto, che però è sempre lì un punto interrogativo, perché ricordiamoci, il momento più giusto non era neanche quello di Alberto Contador, però dopo sì, vinto la Vuelta allora però tutti siamo uno ci di... prova però, e poi fa saltare il banco, capito, però nel gruppo, anche di perderla. Nel gruppo tutti dicevano Contador è semplicemente uno scellerato, e invece poi ha avuto ragione lui. Se non ci provi non lo saprai mai, bisogna usare. Chi non osa e fa troppo il ragioniere e corre con il bilancino del farmacista, e in questo caso non c'è malizia, non piace agli sportivi, non piace, non segna. Comunque Gavia, Stelvio, Tre Cime di Lavaredo, il Galibier, da sono questo dei punto buoni di motivi vista per ci sarà dire spettacolo. Che, esatto, sono tutti monumenti naturali del ciclismo che metteranno in difficoltà Wiggins, o potrebbero metterlo in difficoltà. Non lo metteranno in difficoltà, chapeau. saremo i primi a applaudirlo e quindi saremo ben felici, come credo gli organizzatori di RCS che hanno confezionato questo Giro d'Italia 2013, applaudirlo a Brescia. Ricordiamo che il Giro d'Italia finirà a Brescia. Il Giro chiude a Brescia. Partirà da Napoli. Beh, insomma, una partenza eccezionale. Ogni tanto fa bene anche cambiare, sono solo i francesi che arrivano sempre tradizionalmente a Parigi. Tu sei per i cambiamenti? Io sono per i bei luoghi e quest'anno nel Giro d'Italia ne porta tantissimi e ne andiamo a toccare tantissimi. La partenza è di una suggestione immensa. Io ho nel cuore Napoli, la Penivozola, la Sorrentina e i primi tre giorni sono tutti lì. Si parte da Napoli, poi si va a Ischia, poi si va sulla penisola Sorrentina. Cioè sarebbe stare lì. Sì, però sarebbe da farci vacanza. Esatto, e dopo fare una puntatina sulle Dolomiti. Diciamo che mi piace la ritualità, se devo essere sincero, con tutto il rispetto che ho per Brescia, che è una città bellissima, però mi piace molto comunque la ritualità e la sacralità di un arrivo importante come quello di Parigi. Quindi mi spiace un po' da milanese non avere sempre il mio Piazza del Duomo lì a celebrare una delle gare più importanti del mondo, la seconda dopo il Tour de France. Parigi non discute più ormai da anni, là arrivano, là loro celebrano il 14 di luglio e là lasciano sui Campi Elisi tutte le tribune, tutte le attrezzature per poi ospitare di lì a poco, esattamente 10 giorni dopo, l'arrivo del Tour de France. E i turisti di ogni... Lo sanno e sono lì milioni di spettatori che attendono l'evento. Secondo me, se devo dare un piccolo suggerimento al Comune di Milano, in vista anche dell'Expo 2015, di ritornare a questa grande abitudine, di investire un po' nel ciclismo. Il ciclismo in questo momento non costa tantissimo e dà molto, e può veramente dare molto in termini di ritorno d'immagine. L'hanno dimostrato tantissimi sponsor, l'hanno dimostrato tantissime città. Non ultima Londra, che ha scoperto il ciclismo, diciamo forse in ritardo, ma se ne innamorata, tanto è vero che il Tour de France partirà tra 2 anni a Leeds. Le Olimpiadi di Londra sono state forse la gara ciclistica, l'evento forse più incredibile per partecipazione. Sì, bello anche proprio dal punto di vista corale, della scenografia, esatto, e di tutto quello che c'è stato intorno. E così la grande para anche sempre da Londra del Tour de France, che è stato un successo clamoroso. Quindi è un'occasione. Ci sono tanti sport che magari sono più appetibili, ma i costi sono molto molto importanti, forse troppo, per quello che restituiscono. Il ciclismo, in questo caso sto facendo veramente... Sì, stiamo facendo promozione a uno sport bellissimo. Però è uno sport bellissimo che al momento costa poco, quindi investite nel ciclismo, investite in questo sport che attraversa la gente e attraversa i cuori. E noi abbiamo parlato nelle scorse settimane anche dell'incredibile crisi di altri sport, dove ci sono campioni tra i primi 10 al mondo nelle singole discipline. Parliamo dello sci, che sono senza lo sponsor personale, ma questa è un'altra faccia della crisi. Grazie a Pier Augusto Stagi. Grazie a voi e buon anno, e che sia veramente un buon anno. E che sia veramente un 2013 in cui si parli più di strada e meno di farmacie. Noi ci fermiamo, io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Roby Scaltritti in regia. Torniamo domani sempre alla stessa ora con tutti i convocati. Merry Christmas to all Manchester City fans, and thank you for your support.